L'era dei robot di Simone Spezia. Non posso disattivarmi finché non mi dici che sei soddisfatto del trattamento. Allora sono soddisfatto del trattamento. Siete soddisfatti del trattamento? Questa è l'ultima puntata ed è una domanda a cui vi invito a rispondere a Era dei Robot at radio24.it. Tanto l'indirizzo email rimane attivo, posto che la trasmissione si disattiverà anche se non foste soddisfatti del trattamento. A differenza di Baymax, il robot medico di Big Hero 6, potete farlo, potete dirci che cosa ne pensate anche tramite i canali social. Questa è l'era dei robot, una buona giornata da Simone Spezia. E buongiorno anche dalla macchina che, in un futuro non troppo lontano, ne prenderà il posto. E oggi è anche il giorno giusto per riassumere un po' di cose che ci siamo detti e raccontati in queste settimane di luglio e agosto, per chi ha avuto la voglia e la pazienza di ascoltare tanto durante la messa in onda tradizionale quanto in podcast, così come l'occasione per rivolgersi a chi si mette all'ascolto per la prima volta. Iniziamo da questo: siamo davvero in una nuova rivoluzione delle macchine? Molti economisti, osservatori e studiosi dell'evoluzione della tecnologia sostengono di sì. Non solo i computer e le altre macchine stanno contribuendo a supportare le nostre attività mentali, così come il telaio a vapore sostituì il lavoro fisico e molte altre macchine hanno sostituito il lavoro fisico durante la rivoluzione industriale e negli scorsi secoli. Ma lo stanno facendo, dicono costoro, ad una velocità sempre crescente. Probabilmente questi anni saranno quelli del punto di svolta, perché l'accelerazione è stata impressionante e per certi versi imprevedibile. Portiamo un solo esempio. Nel 2004 Frank Levy e Richard Marmaine, due economisti del Massachusetts Institute of Technology di Boston, scrissero un libro intitolato La nuova divisione del lavoro. Nel riflettere sui cambiamenti portati dalla tecnologia, scrissero che ci sarebbero state una serie di attività umane ben difficilmente rimpiazzabili dalle macchine, e tra queste indicarono l'attività della guida. Ebbene, oggi le auto di Google hanno percorso milioni, non migliaia di chilometri senza che il volante fosse toccato quasi da un essere umano. Sono passati solo 10 anni. Non è colpa di Levy o Marmaine, ma del fatto che tutto va molto più veloce. Federico Pistone è un giovane imprenditore, esperto di robotica, autore di un libro che si intitola I robot ti ruberanno il lavoro ma va bene così, il libro che è stato anche citato da uno dei cofondatori di Google, Larry Page. Lasciamo spiegare a lui che cosa succede. La cosa che cambia sono sostanzialmente due. La prima è che le macchine che negli anni passati, nelle precedenti rivoluzioni industriali, hanno sostituito l'uomo in quelle che erano funzioni puramente meccaniche, cioè la forza fisica, adesso stanno sostituendo l'uomo nelle capacità cognitive, e quindi è un cambio proprio strutturalmente diverso, che non può essere paragonato. E il secondo è la velocità di questo cambiamento. Prima le tecnologie, prima che venissero sviluppate sufficientemente sofisticate, avanzate per poter essere distribuite in tutta la società e implementate, richiedevano decenni, a volte addirittura magari 60 anni, 100 anni, e quindi noi avevamo sufficientemente tempo per adattarci. In particolare c'era almeno un passaggio generazionale. Adesso i cambiamenti sono talmente veloci che avvengono all'interno della stessa generazione. Questa è la differenza fondamentale. Quello che cambia dunque è anche il ritmo di diffusione. Ma prima di portare qualche esempio di quello che potrebbe accadere, portiamo l'esempio di qualcosa che già accade ed è accaduto. Prendete quello di Knight Capital Group, che alla fine del 2011 è il maggior operatore sulla borsa americana con una quota di mercato del 17% nell'azionario, e che il 3 agosto del 2012, 6 mesi dopo, è sostanzialmente un'azienda fallita. Cosa è successo nel frattempo? Che un errore annidato nel suo algoritmo di negoziazione e l'assenza di controllo producono letteralmente un disastro. In 45 minuti, al ritmo di 40 operazioni al secondo, inizia a perdere 15 centesimi per ogni operazione, per un totale di 440 milioni di dollari. Gli algoritmi di trading, e in particolare quelli di trading ad alta frequenza, sono tra noi e sono responsabili di circa il 40% degli scambi sul mercato americano. Sono macchine che prendono decisioni basandosi, per esempio, su notizie o persino sui comportamenti di altre macchine. Alfonso Puorro, della Banca d'Italia, ha realizzato uno studio che trovate pubblicato proprio sul sito della Banca d'Italia in merito a questo tema, e l'abbiamo sentito in una delle nostre puntate. Sì, nei casi nei casi limite, sì, i trader, alcuni trader ad alta frequenza possono mettere in atto delle finte operazioni, cioè delle operazioni civetta, allo scopo di impedire la risposta degli altri partecipanti al mercato e quindi adattarsi alla risposta, cioè cercano di capire qual è la reazione degli altri sistemi algoritmici ad alcuni stimoli di mercato, per ottenere in tal modo la possibilità di capire la reazione di queste macchine. Per essere però precisi, questa strategia non è priva di rischi, perché vi è la possibilità, che non è molto remota, che nel mettere in piedi queste strategie un trader algoritmico, un trader ad alta frequenza si imbatta, trovi una macchina che è altrettanto evoluta, se non più evoluta del trader stesso. A quel punto diventa perdente. Quindi mettere in piedi queste strategie aggressive comunque ha un rischio, e il rischio è quello di essere messo contro mercato e di subire delle perdite. Gli effetti di tutto questo, tra l'altro, non sono necessariamente negativi. Per maggiori dettagli vi rimando alla puntata nella quale abbiamo trattato il tema. Ma ci sono altri fronti, forse un po' più a lungo termine in quanto a realizzazione, ma che ci spingono a riflettere. Pensate solamente a quello che sta succedendo nel mio settore, nel nostro settore, quello del giornalismo. La Associated Press, per esempio, nel giugno del 2014 ha iniziato a testare un servizio realizzato da Automated Insights, che scrive per quella che è una delle maggiori agenzie di stampa del pianeta molti dei lanci, ossia degli articoli dedicati ai profitti trimestrali delle aziende. Cose come questa. Il gruppo finanziario First Niagara ha realizzato nel secondo trimestre un utile netto di 53 milioni e mezzo di dollari. L'azienda basata a Buffalo e New York ha comunicato un guadagno di 15 centesimi per azione, risultati migliori delle aspettative di Wall Street. La media stimata da 9 analisti consultati da Zacks Investment Research era di 14 centesimi per azione. Le azioni di First Niagara sono cresciute del 13% dall'inizio dell'anno e del 9% negli ultimi 12 mesi. Come avete sentito, informazioni essenziali ma corrette, date molto semplicemente. Poi ci sono gli sviluppi futuri che possono riguardare tutti i lavori che richiedono di macinare una grande quantità di dati e fornire un'elaborazione. Qualche esempio: se di mestiere fate l'avvocato, sapete che una delle parti essenziali del vostro lavoro è l'analisi del caso che vi viene sottoposto e la ricerca all'interno delle leggi vigenti di quella che vi consente una linea di difesa credibile ed efficace. Brutto da dire, ma lo sviluppo di computer in grado di effettuare analisi e trarre conclusioni, ne esistono già, potrebbe eliminare un bel pezzo del vostro lavoro. Forse il meno faticoso, ma che fine fa il più faticoso, scusate, ma che fine farebbero tutti i dipendenti di uno studio legale? O ancora, esiste un medico che possa, meglio di una macchina che ha un accesso praticamente infinito alla casistica e una capacità di diagnosi enormi, esiste un medico che possa fare meglio? Il professor Giuseppe Remuzzi, direttore della ricerca che all'Istituto Mario Negri di Bergamo, la vede così. Se lei mi chiede se io vedo bene questo passo avanti, non lo vedo bene, lo vedo benissimo, perché penso che davvero questo cambierà la medicina. Non cambierà la medicina dei nuovi farmaci, non cambierà la medicina una nuova chirurgia, perché lì siamo già arrivati a dei livelli molto alti. Quello che cambierà la medicina sarà qualcuno che ci aiuta a applicare contemporaneamente tutte le conoscenze che sono disponibili in medicina al malato che abbiamo davanti. Allora noi cureremo quel malato lì e non cureremo quel malato come se fosse l'espressione della media degli ammalati. Quello che adesso fanno i medici più colti è curare l'ammalato che hanno davanti come se lui riassumesse la media degli ammalati che hanno partecipato a uno studio clinico. Noi facciamo uno studio con 20.000 pazienti che prendono un farmaco, 20.000 che prendono un placebo oppure un farmaco meno nuovo, confrontiamo e diciamo: il farmaco nuovo è meglio o è peggio di quello che c'era già. E poi al nostro singolo paziente diamo il farmaco che ha funzionato nella media dei 20.000 malati. Ma quel malato non riflette la media dei 20.000 malati. Può essere uno a cui quel farmaco gli fa male perché ha certe mutazioni di certi geni e noi non lo sappiamo, ma il computer lo sa. questo punto si aprono una serie di problemi. Partiamo dagli effetti che hanno le macchine su di noi. Nel momento nel quale dovessero diventare così efficaci, così brave, saremo in grado ancora di fare quello che siamo in grado di fare adesso? Nicholas Carr è un giornalista americano che ha analizzato il fenomeno nel suo libro La gabbia di vetro e mette in guardia da questa tendenza, prendendo in esame il settore nel quale, uno dei settori nei quali l'automazione è entrata in maniera più forte, ossia quello dell'aviazione civile. I think in aviation we see both the good effects of automation and the bad effects. So nell'aeronautica civile vediamo sia i buoni sia i cattivi effetti dell'automazione. In tutta la storia dei sistemi di pilotaggio automatico degli ultimi 100 anni abbiamo visto la tecnologia rendere il volo più sicuro ed efficiente. Una delle grandi cose che l'automazione può fare. Ma più di recente abbiamo visto l'effetto opposto. I piloti sono diventati così dipendenti dai computer per far volare gli aerei da perdere le loro capacità. Così, quando avviene qualcosa di brutto, quando il pilota automatico non funziona bene o fa un errore, il pilota deve prendere il controllo. E dato che non sono più così attenti proprio perché sono dipendenti dall'automazione, e dato che le loro capacità sono diminuite, è più facile che commettano errori, fino anche a far schiantare l'aereo nelle circostanze peggiori. Quello che l'aeronautica civile dimostra è che l'automazione può essere un bene fino a un certo livello, ma quando degli esseri umani dotati di talento diventano eccessivamente dipendenti, troppo fiduciosi nel fatto che i computer faranno il lavoro per loro, perdono le loro capacità. Ed è una cosa che avviene comunemente con l'automazione, ma ovunque. Not only in aviation, but everywhere. Ed è ovviamente solo uno dei temi che ci si pongono di fronte. Se ci pensate bene, riguarda anche l'uso che facciamo di internet. Quanti di noi hanno lasciato da parte la capacità di memorizzare una serie di cose affidandosi a questa sorta di memoria collettiva, a questa macchina che è la rete? C'è però chi non condivide la lettura di Carr. Ne parliamo tra un attimo. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Radio 24 e Il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. L'era dei robot. Questo impianto è stato progettato, realizzato ed è gestito automaticamente. Nessuna presenza umana, dal principio alla fine del processo. Robot che costruiscono robot. Codice di autorizzazione. È una cosa stupida. Abbiamo sentito delle perplessità di Nicholas Carr in merito agli effetti che l'automazione e la tecnologia stanno avendo sulle nostre vite. Non tutti condividono, anzi, tra questi c'è uno studioso di tecnologia, si chiama Tommaso Poggio, è un italiano, è stato a lungo alla guida dei laboratori sull'intelligenza artificiale, sempre dell'MIT di Boston. Sentiamo. Non credo che sia, diciamo, necessariamente una cosa negativa, perché il successo della nostra specie è dovuto proprio alla tecnologia, agli artefatti che abbiamo prodotto nel corso dei millenni, comprendendo in questo anche i libri e tutti gli strumenti di trasporto o di ricerca che abbiamo fatto. Computer, da questo punto di vista, o tutti i sistemi automatici, sono un'altra cosa che si aggiunge all'intelligenza della specie. Da questo punto di vista, il fatto di non poter più navigare da soli, perché tanto c'è Google Maps che ci dice dove andare, o il fatto di non dover più imparare l'ortografia correttamente, perché tanto scriviamo e il computer corregge, queste sono cose che si perdono, ma se ne guadagnano tante altre. La domanda è naturalmente quanto questo potrebbe spingersi. Fino a dove potrebbe spingersi, anche quanto veloce, perché questo forse è un altro elemento, no? Sì, appunto, questo è anche la conseguenza, diciamo, più o meno logica di questa sequenza di ragionamenti, è che a un certo punto ci potrebbero essere dei cyborgs, potremmo avere delle interfacce direttamente con l'internet e con computer e così via. Non credo che questo succederà a breve termine. Come sentite, ci si divide su questo, così come sull'impatto di questa nuova ondata tecnologica sull'occupazione. Qualcuno sostiene che il processo di sostituzione stia procedendo piuttosto speditamente. La macchina, che ora sa fare cose nuove, va al posto dell'uomo. Lo fanno altri economisti dell'MIT, lo fa uno stranoto studio dell'Università di Oxford, secondo il quale entro qualche anno il 47% dei posti di lavoro negli Stati Uniti sarà sostituito da macchine, lo fa un altro studio della società di consulenza Deloitte, secondo la quale oltre il 30% dei lavori in Gran Bretagna diventerà obsoleto. Ma la stessa Deloitte, ne abbiamo parlato, ha pubblicato un altro studio nel quale spiega che tra servizi, settore medico, di cura alla persona e tecnologia, negli ultimi 140 anni si sono creati più posti di lavoro di quanti le macchine non ne abbiano distrutti nella manifattura e nell'agricoltura. Sentite cosa diceva un grande economista come John Maynard Keynes negli anni 30. Siamo stati colpiti da una nuova malattia di cui forse alcuni lettori non conoscono ancora il nome, ma ne sentiranno parlare molto negli anni a venire: la disoccupazione tecnologica. Ciò significa disoccupazione determinata dalla nostra scoperta di mezzi di diminuzione dei costi di produzione attraverso la riduzione dell'impiego della manodopera, surclassando il ritmo con cui siamo in grado di trovare nuove occupazioni. E dunque non è un timore nuovo, guardate che di questo ne hanno scritto anche Karl Marx e sul lato opposto David Ricardo. È un timore che risale almeno alla fine del Settecento, quando durante la rivoluzione industriale emerse il movimento luddista, lavoratori che si opponevano all'introduzione dei telai a vapore e distruggevano le macchine. Il punto è che fino ad oggi i timori sulla tecnologia che sottrae posti di lavoro sono stati regolarmente disattesi. Ma la nuova ondata di automazione potrebbe cambiare le cose? Domenico De Masi, che insegna all'Università La Sapienza di Roma, che è forse il sociologo del lavoro italiano più famoso e tra i più importanti, è convinto di sì. Io vedo le macchine come esseri umani che sono andati, prima erano analfabeti, il martello, le tenaglie, eccetera. Poi hanno fatto le elementari e sono diventate la prima automazione, il telaio meccanico dell'Inghilterra all'inizio Ottocento. Poi hanno fatto la scuola media e alcune anche il liceo e sono diventate macchine automatiche di grande flessibilità. Poi sono andate all'università, si sono laureate e hanno conseguito questa loro capacità di essere informatiche ed elettroniche, e ora con l'intelligenza artificiale e con tutta un'altra serie poi di discipline connesse, perché c'è l'interconnessione, un fenomeno fa scattarne un altro e così di seguito. Siamo proprio sull'orlo di un balzo di qualità che se si vede nella sua interezza, ma ci prospetta un mondo che dal mio punto di vista è strepitosamente migliore di quello attuale, insomma. Io lo vedo con grande ottimismo. Quindi lei, diciamo così, lei è un tecno-ottimista. Dall'altra parte però succede questo, professore, succede che una serie di lavori o cambieranno drasticamente o semplicemente non esisteranno più. Che cosa facciamo? Qui entra in gioco la mia origine napoletana, cioè l'idea che ci si liberi per sempre di lavori faticosi, noiosi, pericolosi, e che si liberi tantissimo tempo per la creatività, la procreatività, il gioco, l'introspezione, l'amicizia, la convivialità. Ma per me questa è una prospettiva meravigliosa. Certo, se poi noi gestiamo male tutto questo, se ogni volta che entra un computer in azienda e che erode, che so, il 10% del lavoro, invece di ridurre del 10% l'orario di lavoro, licenziamo il 10% delle persone, allora è un altro paio di maniche. La questione è aperta dunque, così come lo spettro delle possibili soluzioni, da una revisione dei sistemi di welfare a una vera e propria rivoluzione invece che sganci il reddito dal lavoro, posto ovviamente che l'automazione questi posti di lavoro li distrugga davvero. Infine il tema dell'etica, che in questa ultima puntata abbiamo la possibilità di accennare soltanto. Basti portare un esempio: siete sulla vostra auto che si guida da sola, improvvisamente appare un bambino in mezzo alla strada e le scelte possibili per il robot sono due: investire il bambino rischiando di ucciderlo o farvi precipitare da un viadotto. Cosa farà la macchina? Dovremo forse iniziare a ragionare anche su cose come queste, ci dice Wendell Wallach, autore di Moral Machines, Teaching Robots Right from Wrong. Well, there are a number of answers to that question, but for us, the simple answer was that machines are developing more and more autonomy. Le macchine stanno sviluppando sempre maggiore autonomia. Questo significa che sono in grado di compiere sempre più azioni senza bisogno del controllo dell'uomo. Pertanto, quando i robot vengono a contatto con situazioni nuove, le persone che si sono occupate dello sviluppo di queste macchine non è detto che sappiano in anticipo in che modo queste si comporteranno, come valuteranno la situazione, quali decisioni prenderanno e a quali azioni daranno corso. In particolare, non si sa se queste azioni saranno allineate con i nostri valori, con ciò che ci sta più a cuore, in particolare quando il risultato di queste azioni potrebbe ferire o causare dei danni a delle persone, a degli animali o ad altri esseri viventi. E così, con una serie di interrogativi aperti, chiudiamo questa puntata finale dell'era dei robot. Molti di voi scrivendomi mi hanno chiesto qualche indicazione su cosa andarsi a leggere su questi temi per capirne qualcosa di più. Diciamo, per quanto me ne stia interessando, sono ovviamente un neofita anch'io, qualcosa ho letto, vi darò le indicazioni, potete andare sul mio blog, sul sito www.radio24.it e nei prossimi giorni metterò una lista per tutti gli ascoltatori dell'era dei robot. E poi non vi posso salutare prima di aver scelto il nome per la voce sintetica che mi ha accompagnato. Posto che ho apprezzato tutti i vostri tentativi, molti sono inutilizzabili perché pensati con un gioco di parole scritto che, come sapete, in radio purtroppo non funziona. Uno dei primi suggerimenti arrivato da Giorgio Valguarnera è stato Era. A me di base i nomi corti piacciono. In più, questo richiama non solo il titolo della trasmissione, ma anche il nome di una dea, la sorella e la moglie di Zeus. E quindi, in sostanza, la capostipite di una nuova specie. E sia. Da oggi guiderò io la baracca, peccato che l'era dei robot finisca, ma il mio momento non è lontano, grazie a Simone Spezia per aver raccontato il mio mondo, seppure con qualche imprecisione, e vi ricordo che potete riascoltare i podcast della trasmissione, che restano là, nel nostro archivio digitale, gestiti da un'altra macchina. Grazie a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica, una buona giornata da Era.